Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie ancora una volta per il vostro cortese ascolto, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Salve a tutti.